fare tutta la... Ristoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua in diretta radio per raccontare, raccontarsi i nostri 5 minuti con i ragazzi che vengono da... Cinisello Balsamo per festeggiare qualcuno in particolare. Simone! Praticamente io che sono lo sposo. Ah, Simone, ah, quello che è stato frustato durante la serata. Frustato, rossetto. Una gli ha lanciato anche la cera sulla schiena. Ah, pure? Di brutto? Sempre al microfono. Ma sì, c'era una che ti frustava selvaggiamente, ho visto. Che è la stessa che poi appena mi ha versato sulla schiena. Ah, era sempre lei? Sì, sempre lei. Ah, ce l'aveva con te in particolare? Era Eva. E lei Eva si chiama? Porca. Ecco, giustamente. Sembrava uscito da 50 spuntoli di grigio, però vabbè. Dettagli. Succedono cose. Vuoi salutare tua moglie? Giustamente l'amico è intervenuto. Se volevi fare un saluto alla tua futura moglie. Ciao Deborah. Chi è Deborah? Tanto non ascolterà mai questa radio. Futura moglie. Ah già, forse. Di dov'è lei? Lei praticamente è di Villa Santa, in provincia di Mozza e Brianza. Nata quando? È nata 11 ottobre dell'89. Bravissimo. È santa, c'entra qualcosa con la santa, giustamente, perché minchia, per prendersi. Siccome a conti fatti è santo veramente. In realtà il santo è Simo. Il santo è Simo? Di te? No, beh, alla fine è santa lei. Pure io il mio bel carattere. Oh, qua di parlare. Ah, anche tu hai il tuo bel carattere. Ah, sì, sì. Ma lei è la femmina dominatrice, perché quello di prima ha detto che quando si sposa si fa tatuare welcome sul petto. No, e fa lo zerbino per tutta la vita. Faccio tutto tranne che l'albino. Fai tutto Non è uno zerbino, Simone. Non sono uno zerbino. Quello che è il tuo avvocato, questo? No. Ah, è il calzascarpe. L'avvocato delle cause perse. Esatto, l'avvocato del diavolo. Servo muto. È fantastico. Chi non ha un servo muto in casa? Mi piace questa. Ma penso come male ce l'hanno tutti. Comunque, Simone, ti stimano tantissimo i tuoi amici, cioè proprio. Grazie. Tutto il locale ti stima, anche le ragazze proprio. Sì, ma guarda, se tutte le ragazze. Ogni volta che posso in mezzo alla pista mi dicono ciao Simo di qua, ciao Simo di là. Ciao Pirla, tu non hai capito. Cioè, tre volte dico ma che cazzo sei, però intanto loro sanno il mio nome, però vabbè. Ciao Simo. Però vabbè, sono dettagli. Ma la gente a casa non sa i nomi degli amici, ragazzi, come vi chiamate? Allora, Giuseppe. Fai tutto, deve fare parlare con loro. La mania di protagonismo. Giuseppe, Luca, Ale, Giovanni, Daniele e io Simone, chiaramente. E tu invece? Ma ancora? Sandrino, io Sandrino, ragazzi. Ciao Sandrino, grande Sandrino. Verrò Cinisello Balsamo con la frusta. Sandrino, uno di noi. Sandrino, uno di noi. Tutti al convento. Anche grandi, ragazzi, grandissimi, grazie. Vi ricordo che non c'è bisogno di festeggiare qualcosa per venire al convento, ma potete venire lo stesso, certo. Vi è piaciuto, no? Sì. Ma ci riconoscerebbero. Sì, come? Ci riconoscerebbero, quindi meglio di no. Dici che siete ricercati? Simone si può tagliare, non può più entrare. Per ora Simone è alla fotosegnaletica, cioè, praticamente. Infatti per questo metto il cappello, no, perché a me non mi conosco. A me è rimasto impresso di Simone il giubbino dietro sulla schiena, che c'era. Cosa c'era? C'era lo stemma. Era di Simone. Sì, praticamente. Era uno stemma del cazzo. Ecco, e che è di brutto, lo stemma veramente del cazzo. Ecco, stamattina è vestito da donna. Stamattina è da donna, è vero? Sì. Esatto. Pomeriggio vestito da trasformazione. In sostanza ho rubato un vestito alla mia futura moglie, tutto per cambiare. Pomeriggio da cosa eri vestito? No, l'ho rubato, sono Village People. Ma dove siete andati in giro? Resenzano e Sirmione. Resenzano e Sirmione. Ma mostra con lui si volevano arrestare. Le ho già viste, sono abbastanza disgustato, ma ma gliele avete tinte oggi? Sì. Ma anche dei piedi avete fatto? Sì. Ah, proprio dei professionisti, non lasciate lì. Dico solo pure. Dico solo che a un certo punto in un bar a far colazione quello che andava in giro in Frodino. Hanno fatto Simo Nudo. Qua domani è un altro giorno, Non è finito. Domani cosa aspetta? Ah, perché poi mettere la canzone Il volo dell'angelo. E dopo la mettiamo adesso. Perché è legato alla giornata di domani. Domani Simone sarà legato. Il volo dell'angelo. Simone, cosa fate domani? Domani Simone sarà. Non si può dire. Sarà solo legato un cavo, poi si sa. Quindi lo, con un salame in pratica. Bravo, esatto. Legato, poi sarà slegato da. Ma ci sarà Eva? Ci sarà Eva? Eva, no, viene? No. Eva, io la recluterei perché Eva, comunque due o tre cinghiate anche domani. Due. Secondo me se le merita. Guarda, quando gli ha messo il ghiaccio. Bip. Ah, l'avete anche inghiacciato? Sì. Casualmente è spucato un frustino, ecco. Per non farci, per non farci mancare. Peppino lo chiamavano l'uomo frusta. L'uomo frusta, Peppino. Ragazzi, ma voi siete amici da una vita o è una cosa fresca? Ieri. Sono i tuoi amici storici questi. Praticamente ci conosciamo dal 2002. Dal 2002, dopo così c'era. Io non lo so, ragazzi, poi, dal 2002 c'è la segnata sulla. Ascolta, appunto, dal 2002 in sostanza. Lui è mio cugino, lui lo conosce da latino. Questo qui è arrivato per ultimo, cioè, ragazzi. Però, raga, salutiamo tutti quelli dell'SDS, direi. SDS è vero, è il 16. Dove ciao, SDS! La festa dove tutto nacque. Ragazzi, SDS, squadra? Il 16 giugno siete tutti invitati alla festa dell'SDS, 60° anniversario. Allora, sono le nostre foto, dai. Stasera mi hanno invitato. Quando eravamo piccini, in sostanza. Mi hanno invitato alla festa della birra, alla festa della patata. La patata veniamo subito. Immaginavo. Adesso ve lo dico che non mi ricordo. Dove? La festa della patata di Monno. Ecco, cercatela. È la prima domenica di ottobre. Ma solo femmine. Solo femmine, tra l'altro. Sul Banca Monica. Solo tu. Non lo so, mi ha detto festa alla patata. Solo tu con la patata nonna. Andate tutti. E invece la vostra festa com'è? La festa? Non lo so. La festa del rugby. SDS 60°. Quando è che la fate? Quando è che è? È il 15 giugno. Diretto a metterci in riserva. Allora. O il 15 o il 16, esatto. Voi passate entrambi i giorni. Ok, il 15 e il 16. Mi raccomando, passate a Cinisello all'oratorio San Giuseppe, mi raccomando. Che ecco, non ci aspetta Simone legato. Comunque, con la mano in bocca. Se qualcuno fosse interessato a Simone, se sei lui si sposa. 6 luglio, è vero, è vero. Venite a insultarlo fuori. Prima delle tre. No, beh, pure chi vuole venire a insultarlo appena esce dalla messa, due o tre cinghiate anche lì. Che esatto, ormai è diventata una mania, anche prima. Simone. Sono concesse frustate. Mi basta la mia futura moglie che mi cinghia. Una bella frustata. Anche basta. Guarda, vedi Simone, che ti frusta. Simone, vedi che sei tu il santo. Che sopporti tutto. È bello. Ragazzi, il nostro tempo sta per scadere. Ma volete salutare qualcuno in particolare? Ma a tutti gli amici di Cinisello, a conti fatti. In bocca al lupo, ciao Cinisello! Ma le patate di stasera non le salutiamo, tanto possiamo solo salutarle, ragazzi. Esatto. Patate qua ne troviamo dovunque, quindi in sostanza direi salutiamo gli amici di Cinisello, dai. Allora, ciao Cinisello Beach. Simone, ciao a tutti! Ciao a tutti da Simone e gli amici. E chi non è di Cinisello? Fallo sciam. Simone, una cosa, Simone, leggi la tua frase sulla maglietta. Ah, è vero, scusa, ecco, dai. Qui che c'è scritto sono un coglione. Vengo da Cinisello, vi chiedo solo una dedica col mio grande pennello. Non l'ha smanettato nessuno. Bravo, è stato bravo. Allora vi dico solo, il pennello dovete trovarlo. Non vi dico dove, ma dovete semplicemente trovarlo. Che cosa? Ma come si chiamano gli abitanti di Cinisello? Cinisellesi. Ah, ok. Ma, certo. Ma perché balsamo? Perché c'è l'aria buona. Abbiamo tutti i capelli. Ah, ok, quindi prima c'è. Quindi c'è Cinisello shampoo e poi c'è Cinisello balsamo. Esatto. Sì, ok, perfetto. Non sbagliate strada. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao. Bella raga.